Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, eccoci alle 10:08 primi e 58 secondi in diretta finalmente da una quasi autunnale Milano. Non se ne poteva più di vedere il sole, che tutte le signore tutte allegre perché c'è il sole. Basta. Ma un parla po per te, Oscar. Io vado in moto e va benissimo. Copritevi, anche, donne, copritevi, perché ci avete di altrimenti i miei compari Conte della Belva perdono la testa. Sì. Con quello che vedo. Allora, e in questo fine settimana, come sempre, l'aperitivo dolce amaro dei Conti della Belva. State con noi fino a mezzogiorno in questo San Carlo Borromeo. Vogliamo dirlo, un santo sterminatore, perché è un santo di quelli che ha messo la firma su l'eccidio dei valdesi in Calabria. Ecco, no, lo diciamo degli altri, diciamolo anche dei nostri. Cioè, sì, quel cavolo di statuone che ci darò, la vogliamo abbattere? No, perché vuoi abbattere? Ma perché San Carlo Borromeo c'ha una responsabilità della strage di protestanti. Ma scherziamo, io non ne posso. Ma non si andava tanto per il sottile, dai, Oscar. Ecco, non si andava. Vedi come difendo il santo a cui metà del mio nome è dedicato. Ma lo so, io per quello l'ho tirato fuori all'inizio della trasmissione. Come vedete, anche l'inflessibile professore della Bocconi fa eccezioni per gli amici e i parenti. La vecchia norma di Flaiano è sempre la stessa: tengo famiglia. Santi, presidenti del governo, tengo famiglia, tengo famiglia. Governatori della banca centrale, sono sempre amici. Dai. Allora, Carlo Alberto, e in studio il nostro grande imprenditore Renato Cifarelli, tornato. Buongiorno. Da una specie di giro del mondo a scoprire che i suoi adesso concorrenti ho fatto metà sono temibilissimi, fra due settimane temibilissimi, perché di questo abbiamo parlato. Le strategie con cui ci si confronta nel suo settore sono abbastanza temibili, ecco, della verità. E il nostro grande Mario oggi Skype. Ciao Mario. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, di che cosa parliamo oggi, cari ascoltatori? Per chiamarci al 800 24 00 24, per darci le opinioni al 349 238 6666. Inizieremo con Mario a fare il punto su una settimana che è stata prodiga di sviluppi, diciamo alcuni interessanti, altri un po' inquietanti. È la settimana in cui partono i lavori della commissione parlamentare su risparmio e Banca d'Italia, e ce n'è da dire. È la settimana in cui Bank of England inizia l'aumento dei tassi. E questa è una prospettiva che si apre, la settimana in cui il presidente americano Trump nomina Jerome Powell alla Fed. Io ti favo per altri, ma comunque è un segno di continuità. I tre militari intorno l'hanno fatto riflettere, ci hanno evitato guai, per così dire, almeno fino a questo momento. È la settimana in cui il governo applica il Golden Power, caro Carlo Alberto, su Team, e bisogna dire qualcosa anche su questo. Ed è la settimana poi dei dati del lavoro, eccetera eccetera. Ma insomma, partiremo quindi con la rubrica di Mario, e dopodiché un primo blocco sulla grande questione che strappassiona, è una vera ossessione, la politica italiana e i media italiani: l'età pensionabile, i lavori usuranti. Quindi faremo una riflessione e chiamateci su questo, mi raccomando, 800 24 00 24, dateci una risposta. Volete che salti l'aumento automatico dell'età, il requisito anagrafico per l'età, per la pensione di vecchiaia, visto che l'aspettativa di vita aumenta? Secondo voi è una cosa intollerabile, o invece è giusta e Padoan fa bene a difenderla di fronte anche al suo partito, il PD, oltre a tutti gli altri che vogliono farla saltare? Il problema si riproporrà nella legge di bilancio e vedremo, perché Padoan ha detto no, quella roba resta, caro PD. Ma al massimo estendiamo un po' il concetto di lavori usuranti e discuteremo insieme a un rappresentante della UIL sul come e il perché. In sé per sé questa questione del lavoro usurante significa passare da 15.000 soggetti attuali a 20.000 qualcosa, e invece i giornali ne parlano con l'ovvia idea che è una spallata, perché i giornali, tutti i giornali, anche quelli che poi cianciano di rigore, siccome hanno dei lettori over cinquantenni, sono in campagna permanente effettiva per aumentare il deficit previdenziale. E diteci che cosa ne pensate su questo. Dopodiché avremo un intervento di un economista siciliano, visto che si vota in Sicilia, gli chiederemo fuori dai denti: ma che senso ha credere di poter fare l'economista in Sicilia a Palermo? C'è una regione che ha un bilancio tecnicamente fallito, ci dice la Corte dei Conti, e glielo chiederemo e vedremo se è un caso o meno che poi alla fine abbia deciso di occuparsi di economia criminale. Al di là della battuta, però, è un modo per stare sulle elezioni siciliane. Chiamateci anche su questo. Vi siete fatta l'idea? Andrete a votare? Per chi voterete? Chiedete a una svolta? Credete a una svolta? O invece sarà tutta continuità? E infine visto che è il 4 novembre, visto che è la giornata delle forze armate più che di San Carlo Borromeo Sterminatore, io facciamo una parte della trasmissione verso la fine con l'ex ammiraglio Giampaolo Di Paola, di cui ho una grande ammirazione, e l'uomo che ha tentato l'ultima riforma organica delle forze armate, che poi la politica, come al solito, per mancanza di palle ha un po' lasciato cadere, oggi nell'industria della difesa, e con lui ci porremo il problema non solo del giorno delle forze armate, ma se l'Italia è consapevole o preferisce non parlare della sua industria della difesa, che esatto, dovrebbe essere esatto. Il silenzio cala, decollano gli F-15 e cala il silenzio, caro gli Oscar. F-35, no? Gli F-15 non ce l'abbiamo. Non è 35, no, vabbè, ma lui, gli economisti, sai come. Ho sbagliato numero, ma gli economisti che dicono ho sbagliato numero. Mario, che cosa aggiungere a questo tourbillon? No, io una cosa che mi ha divertito molto questa settimana, sempre delle famose audizioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, poi magari dopo ne parleremo per esteso. Un passaggio della testimonianza del capo della vigilanza della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, che ha detto ai commissari: io non vorrei dare l'impressione che noi ci autoassolviamo, noi diamo i fatti, non i giudizi, ci saranno stati anche molti errori, voi commissari avete i mezzi per individuarli e noi vi diremo se li consideriamo errori. Cioè, questa frase è meravigliosa, noi non ci autoassolviamo, però noi vi diremo se consideriamo errori quelli che voi ci imputate come tali. È un fantastico cortocircuito, come in quelle foto dove c'è il serpente che comincia a divorarsi partendo dalla coda. Per cui a me è parsa questa una frase incredibile, o di autoreferenzialità, o forse di rivendicazione tecnocratica, orgogliosamente tecnocratica. Sta di fatto che poi, come vedremo, mi pare che ci siano tutte le premesse affinché questa commissione d'inchiesta faccia come molte di quelle che l'hanno preceduta, cioè tutti contro tutti a fare della propaganda. Per fortuna arriverà sto confronto all'americana tra Banca d'Italia e Consob, così il teatrino italiano sarà correttamente completato in tutti i suoi aspetti. Caro Alberto, qualcos'altro da aggiungere? Sì, ieri è uscito un sondaggio di SVG da Bloomberg che parlava della fiducia degli italiani nelle banche, della Banca Centrale Italiana e della Banca Centrale Europea. Devo dire che per la prima volta, e ne sono sconvolto, la Banca Centrale Europea ha quasi il doppio del consenso e della fiducia rispetto alla Banca Centrale Italiana, che a sua volta ha quasi il doppio di quelle delle banche normali. È un segnale molto preoccupante, caro Oscar, però voglio dire questo, che le recenti campagne sul tema della vigilanza bancaria, secondo me ha lasciato un segno importante nella testa degli italiani. Cioè, c'è quello che stava dicendo adesso Mario, cioè c'è un'opinione diffusa sul fatto che il regolatore italiano non è all'altezza di quello europeo. Direi che è un elemento importante, perché dopo tutto questo discutere di Europa, la Banca Centrale Europea si è fatta una reputazione di chiarezza e di rigore. La nostra Banca Centrale Italiana, che abbiamo passato la vita a difendere, caro Oscar, oggi è in ginocchio dal punto di vista delle opinioni della gente. È un segnale preoccupante e che secondo me inciderà poi nei prossimi mesi. Vedremo. Di sicuro io penso che la Banca d'Italia e la Consob sperino che i due presidenti di Camera e Senato, appena c'è lo scioglimento, mettano a tacere tutto, decretano questo, che i lavori della Commissione non possono andare avanti. E io credo che sarà così. Quindi non credo che sarà possibile tecnicamente avere sviluppi di nessun tipo o quasi. Detto questo, questa settimana, visto che ormai ci siamo, ne approfittiamo, la cosa è impressionante da aver dovuto leggere su Bloomberg il rilievo della testimonianza dell'ispettore della Banca d'Italia parascandalo sulla vicenda MPS 2010, e cioè su una testata estera non italiana che evidentemente è più attenta, grazie ai suoi giornalisti italiani, ed è più libera nel farli scrivere, sul fatto che in un'aula di tribunale un ispettore della Banca d'Italia dice: nel 2010 noi sapevamo di Santorini. Quindi la storia per la quale poi emerge Alexandria, che serve per far coprire Santorini e serve per spalmare le perdite non dichiarate nel bilancio di Siena, ed è una storia che affonda le sue radici nella follia di quel prezzo pagato su Anton Veneta anni prima. Però detto tutto questo, che rispetto alla Banca d'Italia dice noi sapevamo dal 2010, Draghi presidente del governatore, voglio dire, della Banca d'Italia, smentisce radicalmente la tesi ufficiale secondo la quale poi quei documenti escono quando va a casa Mussari e Vigni e da una casa forte della banca. Questa vicenda è una vicenda sulla quale si regge il patto Draghi, l'attuale governatore della Banca d'Italia, ed è molto grave che tutti facciano finta di non capire che cosa vuol dire quella vicenda. Uno, due, che Barbagallo vada a fare l'audizione smentendo con le parole testuali dice: la vigilanza non ha fatto alcun suggerimento di acquisizione e fusioni alla Vicenza. La vigilanza no. E infatti non parlavano con quelli della vigilanza, Zonin, parlava con altri in Banca d'Italia. Tutti lo abbiamo scritto per mesi, il sistema dell'informazione, per favore non si faccia dire dalla Banca d'Italia che non è vero, perché è verissimo. Quindi sono testimonianze inficiate da parecchi elementi di scarsa credibilità. Dire che i dirigenti della Banca d'Italia assunti dalle banche e da quelle venete non erano della vigilanza e non si sono mai occupati della vigilanza non vuol dire niente, cari amici della Banca d'Italia, ed è incredibile che lo diciate, perché chi viene assunto dalle banche in quel periodo porta in dote il patrimonio di relazioni, essendo magari il segretario del direttorio, stiamo parlando di figure di primissimo piano. Quindi per favore non ce la date a bere, perché non possiamo bercela. Chiusa parentesi, torniamo subito. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fratelli d'Italia. Della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, me lo segni proprio, non vi preoccupare. Allora, Mario, da quale avvenimento della settimana partiamo? Ma guarda, allora, prima di questo, consentimi di fare un piccolo inciso su quello che hai detto poco fa, sì. Perché nelle mie peregrinazioni sui social, così, oltre a così divertirmi con grossi imbecilli che mi segnalano per razzismo perché indico i difetti degli italiani, ho trovato anche un'altra piccola deiezione umana che ha detto: voglio vedere se sabato Giannino, Seminerio, eccetera, oseranno parlare della vicenda di Draghi sulla Banca d'Italia, sul caso Montepaschi. Ebbene, come avete appena sentito dalla voce di Oscar Giannino, ne abbiamo parlato. Chiuso il punto. Allora, per quanto riguarda quello che è accaduto questa settimana, a me ha colpito molto nella ricchissima serie di bonus che sono presenti nella lista di bilancio della legge di bilancio italiana, che ce n'è uno specifico per le fondazioni bancarie, le quali potranno avere potranno avere un credito d'imposta del 65%, quindi guardate, sono soldi veri, per un triennio, su erogazioni annue massime di 100 milioni, quindi con un complesso algoritmo si va vicino ai 200 milioni di beneficio fiscale in un triennio, per progetti finalizzati a promuovere welfare di comunità, misure di contrasto alla povertà e alla fragilità sociale. Ma è la loro finalità. Questa è esattamente una delle finalità statutarie delle fondazioni bancarie italiane. Come si spiega tutto ciò? Abbiamo letto sui giornali varie interpretazioni. Ad esempio il fatto che c'è una riduzione della spesa per coesione sociale, il fatto che ad esempio il patrimonio fruttifero delle fondazioni bancarie si è ristretto e quindi la loro capacità filantropica si è ridotta di conseguenza, e quindi il Ministero dell'Economia avrebbe deciso questa erogazione. Ma come che sia, siccome a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, io vorrei ricordare che esiste questo leggendario progetto Capricorn, di cui Renzi parla da qualche tempo e che ha citato anche nel suo ultimo libro, che promette o minaccia di abbattere lo stock di debito pubblico, non si sa come però, probabilmente girando alla Cassa Depositi e Prestiti tutte le quote di società pubbliche quotate che sono ancora presenti all'interno del MEF. Per fare questo si fa un aumento di capitale della CDP, dove il tesoro conferisce le sue azioni, ma le fondazioni bancarie, che hanno circa il 18% di Cassa Depositi e Prestiti, dovrebbero mettere soldi veri per evitare di essere diluite, e quindi si correrebbe il rischio, in caso di diluizione delle fondazioni bancarie, che Cassa Depositi e Prestiti divenga in misura decisiva controllata dal tesoro e l'Unione Europea, Eurostat, possa costringere lo Stato italiano a consolidare CDP nei conti della pubblica amministrazione. e sarebbe un enorme casino. Quindi a pensare male si fa peccato, eccetera, eccetera, ma io comincio a pensare che tutti questi soldini che vengono graziosamente elargiti alle fondazioni servono a precostituire munizioni per un futuro maxi aumento di capitale della Cassa Depositi e Prestiti e per non diluire la quota delle fondazioni. So che questo è un tecnicismo, mi scuso se magari qualcuno non ha afferrato il concetto e non sono stato chiaro io, ovviamente, però ripeto, siccome il diavolo si nasconde nei dettagli, questo mi pare un dettaglio non di poco conto. Poi, anche perché per fare finte privatizzazioni window dressing il momento è quello giusto, se pensate che il bilancio delle cessioni di questi anni è che l'Ilva è tornata di Stato, Montepaschi è di Stato, come vedete per l'Italia la scusa, ogni scusa è buona per farla restare di Stato e l'intento è quella di farla restare di Stato, per essere chiari, di Alitalia, quindi in linea. Telecom Italia, una bella golden power che non si sa mai, che i progetti di un azionista privato possono mettere in discussione anche soltanto i rischi di una... Professor Carroll, benvenuti nel socialismo reale. Questo azionamento della Golden Power su Tim, sì. Che cos'è? È una messa semplicemente di mano avanti per dire ragazzi dovete chiederci un parere su ogni cosa, oppure la premessa per una separazione vera? Entrambe le cose, Oscar. È il colpo di coda di una politica che si è sentita spiazzata da parte della finanza bretone che è arrivata in Italia senza bussare, questo va detto con chiarezza, cioè, magari un filo più di diciamo di savoir-faire, se posso usare il francese, sarebbe stato utile a Vivendi. Di fatto qui stiamo facendo un processo all'intenzione, cioè la delibera del governo è imbarazzante, dice che potrebbero realizzarsi le condizioni, quando la legge prevede soltanto un intento ex post, cioè quando c'è una chiara e grave minaccia alla continuità del servizio. Ciò detto, mi sembra che gli azionisti di Telecom Italia siano quasi d'accordo, come dire, ma grazie che ci fate un favore, sì. Faranno una bella commissione di garanzia, ci metteranno dentro un po' di grandi commi di Stato e dopodiché probabilmente farà una bella separazione societaria. Questo consentirà a Telecom Italia, guarda caso, magari di scaricare un po' di costi, di mettere a carico di che cosa? Alla fine dei concorrenti, perché di questo stiamo parlando, quindi fammi dire degli utenti, parte dei costi che non gli sono stati concessi dal punto di vista della ristrutturazione in questi anni. Quindi una perfetta inciuccio. Ma la domanda è, questa cosa, cioè il governo che si attiva per trasmettere a Vivendi e a Bolloré l'idea che rinunciate a questo indirizzo, va bene, vedremo il controllo, dite che non l'esercitate, ma intanto l'indirizzo lo esercitate della società, concentratevi quindi sui con media, più risorse fate la pace con Silvio che è il vero noccio della legge elettorale, secondo me un patto d'affari, avete capito, un patto d'affari caro Renzi e Berlusconi, chiusa parentesi, questa è la mia opinione, però abbiamo detto un anno fa questa cosa, esatto. Oscar, da questi microfoni sappiamo che l'interesse di Vivendi da sempre è quello di fare un polo media europeo e ovviamente Mediaset aveva partecipato a questo disegno, poi dopo che le litigi sui prezzi ci hanno portato qua, ma il disegno è proprio quello, torniamo dal disegno originale, le reti all'Italia, i media a Vivendi e... rapido giro d'opinioni, questo resta agli atti che lo pensiamo, rapido giro d'opinioni, però ricominciamo ridando la parola a Mario sulle due vicende, banche centrali, Bank of England e Jerome Powell alla Fed questa settimana, come lo vedi Mario? Ma allora, per quanto riguarda Powell, mi pare una scelta che qui e ora appare di sostanziale continuità con la linea di Yellen. L'aspetto interessante, così a livello di aneddotica, è che la Fed dopo quasi 40 anni non avrà un presidente economista di formazione, perché Powell è un avvocato che ha lavorato nel mondo del private equity e comunque è stato nel governo di Bush padre. Tuttavia le sue posizioni, cioè diciamo tutta, Jerome Powell è un, come devo dire, è un problem broker, ecco, di proprio da decenni fa il risolutore di problemi nel potere, chiuso parentesi. Comunque non ci si poteva attendere, Oscar, l'arrivo del signor Taylor, lo so, perché la famosa o famigerata Taylor Rule avrebbe determinato probabilmente un fortissimo rialzo dei tassi, secondo me non pienamente giustificato, No, però sai che John Taylor negli ultimi due anni ha scritto molti addendum, quindi non sarebbe stata quella roba lì. Però detto questo, capisco che quello che dice è un fondamento. Però alla fine, sai, considera che Trump, in quanto immobiliarista, è un amante del debito e del debito a buon mercato. Sì, ma è questo. Forma qualcosa del genere anche nella riforma fiscale, con poderose esenzioni nell'ambito dell'immobiliare. Io, qualcuno ha scritto, commentatori americani, che alla fine la nomina di Powell era il modo per estromettere una donna dalla guida della Fed. Quindi abbiamo buttata un po' sulla misoginia, sul macismo e sul maschilismo. Non so se andrà effettivamente così, però diciamo, vorrei citare questa posizione tradizionalmente liberal di questi commentatori americani. Per quanto riguarda la Bank of England, che ha alzato, oddio, ha raddoppiato da 0,25 a 0,50 i tassi ufficiali di interesse, rimuovendo lo stimolo aggiuntivo che era stato dato l'anno scorso dopo il referendum, io confesso che non ho capito nulla di questa operazione, ma proprio nulla, perché nello statement è stato tolto il riferimento che diceva che il mercato si sbaglia a prevedere solo mezzo punto di aumento dei tassi nei prossimi due anni. Allora questo cosa vuol dire? Che il mercato ha ragione? Che in due anni avremo solo mezzo punto di rialzo dei tassi di interesse? Non a caso la sterlina ha perso oltre l'1% sulla notizia e il rendimento dei gilt ha perso 10 centesimi. Io non lo so, ma correttamente il governatore Mark Carney ha detto che tutto dipende, tu guarda un po', dalla Brexit, perché alla fine questa gente ha l'inflazione al 3%, i salari reali continuamente erosi, un ricorso all'indebitamento delle famiglie che è veramente inquietante. Pertanto, se si entrasse, ma io non vedo il motivo, in un ciclo restrittivo di politica monetaria severo, le famiglie finirebbero a gambe all'aria e il paese finirebbe brutalmente in recessione. Allora uno si chiede, ma perché hanno aumentato di sto quarto punto? Non lo so, cioè io credo, intanto, noi sappiamo oramai da tempo che i governatori di banche centrali non sono più quelle divinità che di cui siamo stati abituati a leggere sulla pubblicistica in questi anni. Sono degli esseri umani che a volte prendono delle solenni tramvate, altre volte vagolano nella nebbia. Mi pare che il povero Carney, il cui mandato però è quasi giunto al termine, trovi esattamente in questa condizione. Però Mario, hai giustamente fatto riferimento al debito privato delle famiglie inglesi, che secondo me è il vero elefante della cristalleria, perché lì rischiano veramente tanto se per caso la strada verso l'aumento dei tassi è stabile, non so, e la cosa avrebbe delle implicazioni molto importanti anche dal punto di vista di un'eventuale seconda tornata elettorale a breve, di cui si parla da tempo ormai in Inghilterra. Io non so, l'interpretazione, siccome voglio dire, io l'ho considerato un contributo di Bank of England alla totale incomprensibilità di che cosa bisogna aspettarsi davvero dalle banche centrali, quindi un grande punto interrogativo. L'unica cosa che posso arrivare a capire è che abbiamo deciso di utilizzare una finestra ancora buona per mettere le mani avanti qualunque cosa avvenga, dopodiché saranno le rovine o le mancate rovine della politica a decidere davvero che cosa succede. Una cosa è sicura, il governo May, vi garantisco, leggendo tutti i giorni e seguendo le vicende interne conservatore in Parlamento, non è più in grado di prendere il bandolo della matassa, di che cosa dire, e ogni settimana avvengono cose più inquietanti. La lista delle malefatte sessuali dei parlamentari Tories fatta dalle assistenti è una roba che si spiega politicamente proprio per questo, è un altro pezzo della gravissima crisi della leadership del Partito Conservatore, della May, che si trova ad avere figure centrali del fronte moderato completamente travolte da descrizioni di essere, per esempio, soggetti a farsi fare pipì addosso dagli uomini, eccetera, eccetera. Quindi è una roba oramai apocalittica vista dal di dentro, però, chiusa parentesi, anche questo. Torniamo tra un minuto e diventa la questione. Pensionamenti anticipati? Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi di Scipio finita e la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ecco Eccoci qui tornati, cari ascoltatori, con l'intera compagnia dei compagni dei conti della Belva, visto che in studio ci sono Renato e Carlo Alberto. E ci abbiamo collegato in Skype il nostro Mario, che oggi è bellissimo. Voi non potete vederlo, mi dispiace, ma Mario oggi si è fatto una pettinatura tupi. Sto scherzando, dai, però non sono riuscito a farlo ridere. Vediamo. No, ma guarda che rido anche abbastanza di frequente, non ho dolori ai muscoli facciali. No, no, ma io questa trasmissione servo a farvi ridere, ma del resto ognuno ha la sua parte. Voi siete quelli autorevoli e io il ridanciano. Però ragazzi, qui la questione è seria, perché la spallata su quel che resta della legge Fornero dopo le innumerevoli salvaguardie sui cosiddetti finti esodati, perché le ultime salvaguardie sono su cosiddetti finti esodati, lo sappiamo tutti, è stata una strategia nel tempo, anno dopo anno, del sindacato per smontare la legge Fornero, che non gli è mai andata giù. La politica si è aggiunta prima con pezzi importanti, la Lega, i 5 Stelle dall'inizio eccetera, ma oramai anche Berlusconi dall'altra, il PD ha sposato in campagna elettorale l'idea che l'automatismo, sapete che la legge Fornero ha due automatismi, una che è sul requisito anagrafico delle pensioni di vecchiaio collegate all'aspettativa di vita, quindi si certifica ogni 3 anni l'Istat cosa vede l'aspettativa di vita, aumenta, sì, è aumentata nel 2016 rispetto al 2013 di 5 mesi, stac, scatta l'aumento del requisito anagrafico di 5 mesi a 67 anni dal 2019. Il secondo adeguamento automatico è quello dei coefficienti di trasformazione. Ma queste cose non piacciono al sindacato e ormai non piacciono all'intero spettro della politica italiana, perché ovviamente bisogna dire alla gente che noi non è vero, non ce n'è bisogno. Dicono: abbiamo l'aliquota già legale più alta d'Europa, benissimo, ma continuiamo ad andare in pensione a 62 anni, non a 67, cari sindacalisti e cari politici. Continuano a dire: non è vero che la spesa previdenziale del 15,3%, detto la contabilità nazionale, è l'11%. Dici: ma perché bisogna levare questo e questo? Ma come bisogna levare questo e questo? Però c'è questa altra obiezione da parte sindacale. L'altra obiezione da parte sindacale è: separiamo assistenza e previdenza, l'abbiamo parlato mille volte, dicono che la previdenza in sé per sé è in equilibrio, anzi è giusto. Non è vero, lo dice l'INPS, risposta del sindacato: l'INPS sbaglia, con questo criterio non c'è una cifra condivisa, si può dire tutto nel nostro paese. Allora gli vai a dire nella nota di aggiornamento del DEF, quindi cifra ufficiale del governo, andatevi a vedere, ci sono due pagine nelle quali si dice: a legislazione vigente, quindi senza far saltare lo scudo dello scatto automatico, dal 15,3% comunque continuerà a salire nei prossimi anni, c'è una gobba, malgrado tutti i freni della legge Fornero e i coefficienti automatici che sono ringlobati, per cui si arriva al 18%, prima di riscendere al 15%, solo non prima del 2055. E loro ti dicono: ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma come non è vero? È possibile che tutti si inventino i numeri? È possibile questo? Ma l'indifferenza in campagna elettorale diventerà lo sfondamento della soglia, perché Padoan, che è all'incontro con i sindacati, dice: no, non salta l'automatismo, però apriamo un tavolo. Il tavolo diventa sui lavori usuranti. Se fosse solo sui lavori usuranti, si tratterebbe di ampliare la platea attuale, per cui si va ancora in pensione a seconda del tipo di lavoro e degli anni di contributi, tra i 61 anni e 7 mesi, 63 e 7, quindi non 67 anni, e che attualmente sono i lavori in galleria, cava, miniera, i lavori nelle cave, i lavori nei cassoni d'aria compressa, quelli dei palombari ad alta temperatura, lavorazione del vetrocavo rispettati in spazi ristretti eccetera eccetera, asportazione dell'amiante, i lavoratori notturni per i quali c'è già, come vedete, l'esenzione c'è già per i notturni. Non è vero quello che viene ripetuto per chi ha il lavoro notturno non è esentato, la famosa storia: facciamo, non tutti i lavori sono uguali. È già così, è già. Poi se ci vogliamo mettere ovviamente i maestri d'asilo, allora io dico: mettiamoci anche mia moglie con i bambini piccoli, facciamo l'esenzione per tutti, e sono tutti usuranti in questo paese. Bene, fine della mia introduzione, perché io considero questa maniera ossessiva una prova dell'irresponsabilità nazionale, perché non mi si può dire il deficit previdenziale chi se ne frega. In un sistema di ripartizione il deficit previdenziale è a carico di due persone, i più giovani e i contribuenti. Dirmi non è vero, è una questione di civiltà, significa dire: paga qualcun altro. E il paga qualcun altro, io allora mi batto per dirlo. È una questione di inciviltà, possiamo dirlo. Non possiamo dirlo, perché siamo in minoranza, perché... ed è giusto che chi è in maggioranza ci spieghi, anche con un tono altrettanto duro, che siamo in minoranza perché non capiamo un cazzo. Perché io non è che posso pensare che, siccome la pensiamo così noi, abbiamo ragione noi. Evidentemente sbaglia, ci sfugge, caro Carlo Alberto, caro Mario e caro Renato, un problema di fondo, perché loro dicono che è una ragione di civiltà e di solidarietà. Al contrario, è continuare a studiare e garantirsi che questo lavoro sia produttivo. Loro ti dicono che è un'illusione, perché noi parliamo di un sistema di politica attiva del lavoro che non c'è, nel frattempo la gente però la stiamo mandando in pensione a un'età da Siberia. cioè li condanniamo a una vita di stenti per il lavoro, perché ti dicono tanto le imprese, caro Giannino, quando tu ci dici che devono cambiare la modalità di utilizzo delle piante organiche man mano che cresce la vita degli occupati, non è vero che fanno così, perché le imprese italiane col cacchio continuano a farti fare le stesse cose e fino a 67 anni non si possono fare, e io sono d'accordo su questo e gli dico: ma guardate che in Svezia, Norvegia e Germania le imprese da anni hanno i protocolli interni trattando con voi, con l'equivalente dei vostri sindacati, in cui si fa la rotazione degli certo. impieghi delle piante organiche per in cui gli si fa la gestione del ciclo di vita della professionalità, allora, e si investe fine perché adesso ci mettiamo buoni buoni di zitti sì. e ci facciamo spiegare dal segretario confederale della UIL Guglielmo Loi perché noi siamo dei criminali a ragionare in questo modo. Grazie di essere con noi e di aver sopportato questa introduzione. Beh, insomma, diciamo molto efficace, efficace in senso comunicativo. Allora io partirei dalla coda, sì. E cioè che questa discussione, no, non oggi la sua introduzione, in generale rischia di diventare già vecchia tra qualche mese, non perché non ci siano i problemi della sostenibilità, della continuità lavorativa, della contribuzione, del rischio che si carichi sul peso fiscale un'eventuale integrazione di un deficit, diciamo, di natura previdenziale per il Paese, ma perché questi ragionamenti sono costruiti tutti quanti su un sistema, diciamo, di lavoro, di attività produttiva che rischiamo che fra 10 anni non ci sta più. Cosa voglio dire? Voglio dire che il presupposto per arrivare a lavorare a regime a 67 anni presuppone una, come dire, continuità lavorativa che non è certo che ci sarà come c'è stata nel passato. Quindi arrivo a questa prima riflessione. La percezione, è un termine orrendo che si usa, insomma, delle persone di preoccupazione, se non di contrarietà all'innalzamento dell'età pensionabile, non deriva solo dal fatto di lavorare 4 mesi di più, ma del timore che non arriverò con contribuzione piena a 67 anni e quindi più mi si allunga l'idea di lavorare, più vedo il rischio che non riuscirò a avere una vita completa dal punto di vista previdenziale. Detto questo, il tema che lei giustamente ha un po' ridicolizzato, che i lavori non sono tutti uguali, e si amplierà nel futuro, si amplierà. Beh, non è detto che peggiorerà, cioè le condizioni di lavoro delle persone peggioreranno con la digitalizzazione o quello che sarà, ma sicuramente avremo una differenziazione nelle modalità con cui si esplica un lavoro, non solo nella propria vita, ma negli ultimi anni della propria vita. Quindi, conclusione se posso, come vale per il lavoro, come vale per gli ammortizzatori, come vale per le politiche attive, credo che la questione della flessibilità di approccio sia, come dire, uno strumento che va studiato. Io la flessibilità, però, la vera obiezione, io sono favorevolissimo alla flessibilità. La flessibilità però implica, dal mio punto di vista, il passaggio. Noi abbiamo fatto una troppo lunga transizione da un sistema retributivo a un sistema invece contributivo. Ma il problema è che perché la flessibilità sia piena e responsabile, sia nei confronti dell'individuo che pianifica la propria scelta di lavoro e quanto contribuisce e quanto di previdenza aggiuntiva ci mette dal proprio risparmio, sia per la finanza pubblica, implica una scelta ulteriore, cioè il passaggio a un regime non a ripartizione ma piena capitalizzazione, perché a quel punto ognuno davvero ha il tesoretto messo da parte e decide lui, cosa che tutti gli italiani, come lei sa, sono convinti di avere, sì. Mentre invece non è vero, perché nel sistema di ripartizione i contributi di ciascuno ogni mese saranno a pagare le pensioni in essere ogni mese. Questi ogni volta mi tocca dirlo, la gente dice: non è possibile, io ho versato e voglio i suoi soldi sono stati utilizzati, e nel patto scritto esplicito o implicito del sistema di ripartizione. Allora, senza un sistema di capitalizzazione comunque, e io capisco la flessibilità, la capisco comunque, ma comunque il problema diventa l'equilibrio di sostenibilità del sistema, perché in un sistema di ripartizione e ovviamente c'è una questione di generazioni future che sono esposte al rischio che dice Loi, io lo capisco perfettamente, ma questo rischio tanto più si accentua quanto più introduciamo elementi di rigidità e di deficit attuariale nel futuro del sistema. Io un po' questo è quello che temo. Poi faccio un esempio e ridò la parola a lui dopo l'introduzione. Chiunque segua con attenzione queste cose ha visto che noi abbiamo messo nelle categorie usuranti i conducenti di vetture pubbliche sopra i nove soggetti, mentre non mettevamo i camionisti. Lui è ovvio che era una forzatura per dare una spallata, perché se io devo dire Oscar Giannino deve dare il giudizio su che cos'è più usurante tra il conducente di vetture pubbliche sopra i nove passeggeri e i camionisti dei tir, ho pochi dubbi su che cos'è più usurante, no? E infatti i camionisti sono entrati poi per aver diritto all'ape sociale, ma non il lavoro usurante che dà i requisiti di età anagrafica diversa. E adesso si sfonda. Queste cose qua non è come fare una trattativa su qualche margine di punto di salario in più o in meno. Così si scassano i conti tra generazioni. Questa è la mia obiezione. Torniamo tra un minuto, ma ridiamo poi la parola a Guglielmo Loi. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia le messe. Conti della belva. Loi, flessibilità. Era questo il punto su cui era arrivato. Io ho fatto una semplice, per così dire, obiezione. Io dico sì, però la flessibilità in un sistema che rimane a ripartizione comunque implica avere un occhio severo sui conti e gli andamenti dei deficit. Con Cesare Damiano, che noi abbiamo una dialettica pluridecennale, io e lui, dice: ma Giannino, ma tu c'hai sempre l'occhio di qui a 20 anni al deficit, non è questo il problema, si trova la soluzione volta per volta. Dico: Cesare, come si trova? Vuoi alzare ulteriormente i contributi? Bisogna diminuirli i contributi nel nostro paese. Voglio dire, in Germania 18,9% la somma di contribuzione previdenziale per il lavoratore, metà a carico del lavoratore, metà dell'impresa, da noi è il 33%. Cesare, noi dobbiamo scendere sui contributi. Quindi l'altra arma qual è? Le tasse, mi dice lui. Le tasse, vogliamo alzare le tasse? Dice: beh, questa è una buona ragione, mi dice Cesare Damiano. Quindi io ragiono. Lui come la pensa su questo? Quando si parla di flessibilità bisogna parlare poi di risorse e coperture. Allora, ovviamente l'affermazione, come dire, rituale è relativa a un sistema a contribuzione, a ripartizione con il calcolo contributivo, deriva essenzialmente dalla speranza, non di vita, ma la speranza che la nostra economia sia decorosa come minimo. Questo purtroppo è una variabile, vero, come dire, non indipendente, ma che sta là, ma soprattutto per il riflesso che c'è sul tasso di occupazione reale. Perché noi possiamo pure allungare a 70 anni, ma poi se il rapporto pensionati, lavoratori attivi o contribuenti, sia autonomi che dipendenti, scende dall'attuale proporzione, non ci salva nessuno. Questo è lo scenario. Quindi l'altra obiezione che io farei al posto suo, Giannino, sì, ma gli eventuali soldi che si spendono, e noi speriamo che qualcosa si spenda, così faccio l'affermazione della sindacalista, ma non andrebbero maggiormente destinati, tra virgolette, alla crescita, allo sviluppo e al lavoro, perché se no, eccetera, eccetera. Noi però sentiamo come dico, dopo che si è fatto la domanda, si fa anche la risposta. Prego. Facciamo come Troisi, si può fare 50 e 50 in questo momento. E perché dico questo? Perché guardate, noi possiamo fare tutti i ragionamenti perfetti. In giro per l'Italia c'è, anche, non solo per questo motivo naturalmente, un tale tasso di, tra virgolette, depressione, aggressività, violenza verbale. Ah, questo sono d'accordo. Sono molto d'accordo. A un livello che non abbiamo mai vissuto. Sono molto uno d'accordo. Se ne vedono i segni, sì, sì. Vero, vero. È l'insicurezza del futuro, cioè la paura, anzi ormai la certezza che il futuro sarà peggio del presente. Questo scardina qualsiasi sistema di... Che è ridicolo rispetto alla realtà, perché diciamolo pure, in questa assolutamente Italia... Sicuramente sì, sicuramente rispetto alle statistiche effettivamente non corrisponde alla realtà. Però lei devo sfidarla, perché... sull'occupazione giovanile, ma... Loi, devo sfidarla, perché se il vostro mestiere è tutelare i pensionati o i pensionandi, forse non ci siamo capiti sul ruolo del sindacato e forse neanche in quello dell'imprenditore. Ma perché non sfidate le vostre controparti di Confindustria a disegnare un progetto veramente esteso di gestione del ciclo di vita della professionalità delle persone? Perché non definite percorsi di riposizionamento? Ma perché non fate questo fondamentale mestiere che si chiama organizzazione, non negoziazione? Diciamolo che anche Confindustria dice: Giannino, non rompere i coglioni. Dei perché noi abbiamo bisogno di gente che se ne vada fuori dalle scatole, non a 60 anni dalle aziende, diciamolo, perché lui come vede, perché se no scarichiamo sullo Stato queste contraddizioni che invece sono contraddizioni di organizzazione di impresa e quindi dirò del sindacato. Mi dispiace, ma non accetto. Sentiamo la risposta di questo lui. Genere di non scuse accetti, sì, fare l'obiezione, come non l'accetta? Lo accetta. No, io accetto tutto. Ripeto, non è che noi siamo completamente assenti, perché la vita reale nelle imprese dove si può fare contrattazione, insomma quelle che sono, 20%, 30%, ci sono fior fiori di esperienze anche, diciamo, del cosiddetto welfare, di quanti soldi sono andati sulla previdenza integrativa o sulla sanità integrativa, altro, come dire, mina vagante che aleggia nel nostro sistema rispetto alla sostenibilità. Noi, pur non dicendo e non ammettendo mai il principio che il servizio sanitario non deve essere, come dire, smantellato, per usare parole sindacalesi, stiamo investendo anche salario delle persone sull'integrativa sanitaria, perché sappiamo che la vita sarà complicata. Esatto, non si può andare avanti quindi, con l'aspettativa demografica dei cronici col 6,9% del PIL di sanità. Esatto, previdenza, sanità e formazione sono già in parte gli elementi in cui si fa veramente contrattazione. Abbiamo rinnovato contratti a zero salario in cambio di formazione e sanità, cioè perché non diciamo queste cose? No, posso intervenire da imprenditore. Tu vuoi prepensionati i tuoi lavoratori, che diciamo la verità, sei come invece... i sindacati, uguale, dai, su. No, io personalmente non sono, sai che non sono molto allineato in Confindustria, lo so. No, beh, a parte questo, però il discorso che faceva Carlo Alberto, sul quale io mi trovo molto d'accordo, è proprio un percorso di cui almeno io mi occupo da alcuni anni e cerco di chiedermi cosa far fare alle persone che hanno una certa età, forse perché comincio ad averla anch'io. Esatto. E cosa far fare alle persone di una certa età, perché poi alla fine il lavoro in fabbrica, al di là del fatto che oggi le fabbriche non siano quelle dell'Ottocento, c'è tutta ancora l'idea della fabbrica fordista, non è comunque leggerissimo, in cui e lo puoi far fare a una persona di 63 o 64 anni. Allora bisogna trovare delle forme. Io anni fa avevo proposto che ci fosse un part time per le persone di una certa età. Ci sono paesi scandinavi in cui dentro ci sono le forme di filiera condivisa di impresa, in cui l'impresa piccola diventa che non è come la tua, magari non ha lavori amministrativi come quelli, però non è il lavoro usurante, ma è il progetto professionale, il progetto che deve cambiare nel tempo. Su queste cose qua, non è che lo fa il camionista di solito tutta la vita. Su queste cose qua, secondo me, il sindacato dovrebbe darci una mano a intanto facilitare sulle regole del lavoro, che oggi molte cose non le permettono. La seconda cosa, e dovrebbe facilitarci anche nella formazione delle persone per fargli capire che la pensione non si può ottenere all'età a cui eravamo abituati, e quindi nell'ultima parte della vita c'è una funzione diversa da parte delle però, persone. Scusami Renato, scusami, adesso ciascuno il suo. Il sindacato tenta di dire tutti i lavori sono uguali e fa la sua battaglia contro gli automatismi, ok. E dovrebbe essere l'impresa a fare il ragionamento che fai tu, cioè a dire signori, per la sostenibilità dei conti noi per primi mettiamo in discussione l'utilizzo, il mansionario, cioè, a seconda dell'arco vitale, e altrimenti stai chiedendo al sindacato di fare quello che dovresti fare tu. Vede che Guglielmo Loi sono capace anche di un qualche traccia di equilibrio. Posso chiedere di inserire anche il mestiere del tifoso del Milan fra i lavori usuranti? Ma Guglielmo Loi è una persona seria. Ma noi finiamo sempre invece a fare la parte dei mestieranti. Grazie infinita Guglielmo Loi, torniamo a Poggiornale Radio. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio www.radiomaster.ilsole24ore.com. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qua alle 11:07 primi e 29 secondi. Sì, va tutto bene, perché io sono, non sento ritorno alla cuffia, va benissimo l'allergia, sì, tutto a posto, l'emissione. Io ti sento. Perfetto, perfetto. Allora, siamo qui tornati in studio con me c'è Renato. E collegato con Skype il nostro. Eccoci, Mario, buongiorno. Mario, allora, diceva nel frattempo il nostro, per me fonte autorevolissima, collega del Sole Davide Colombo, che segue i numeri e l'evoluzione della previdenza, e per me è una specie di libro sacro, lo dico, mi è capitato più volte di dirlo e lo ribadisco sempre, che va un'osservazione che io giro direttamente al nostro imprenditore qua in studio, dai Renato, perché dice Davide Colombo: prendiamo TFR, scatti di anzianità, mettiamole fuori dai contratti e con queste risorse paghiamo merito e riqualificazione produttiva dei lavoratori senior. Io sono d'accordo con questa, che mi sembra una trovata molto concreta di Davide Colombo. Che dice l'imprenditore Renato Cifarelli? Ma dico che il TFR è una di quelle cose che tutte le volte facciamo, lo usiamo per 50.000, per 50.000 esatto. motivi, cioè ognuno poi lo tira dalla parte sua. Non dimentichiamoci che una parte è stato anche già, diciamo, monetizzato, mettiamola sì. così, dallo Stato. Ci sono, secondo me, mille modi per avere la possibilità di riqualificare i lavoratori anziani. Certo è quello che si diceva prima, quando si parlava di un mercato del lavoro che è cambiato e quindi la non continuità sta diventando un problema. Io arrivo dagli Stati Uniti. Sì. Anche dagli Stati Uniti, e la cosa impressionante per noi è la quantità di persone anziane che lavorano, cioè tu vai nei ristoranti, cioè tu vai al McDonald's, trovi o persone over 65, esatto. ma over 65 anche parecchio, oppure sotto i 22 anni, perché sono tutta una serie di lavoretti che, quelli che da noi chiamiamo lavoretti, poi secondo me non lo sono, che vengono però, sfruttati, diciamo, dalle persone che non hanno nei settori dei servizi e a basso valore aggiunto. A basso valore chiaro. Aggiunto per persone che non hanno la professionalità e non hanno, perché non dimentichiamoci che là il sistema del welfare è completamente diverso, e non hanno la pensione, perché magari non hanno lavorato nelle grandi aziende. Non dimentichiamoci che dimentichiamoci che un sacco di aziende americane, GM compresa, cioè General Motors, che era la più grande azienda americana, hanno rischiato di saltare per i fondi pensione. Esatto. D'accordissimo. Quindi il problema di come finanziarlo è un problema che esiste, però secondo me io lo vedo un po' più secondario, lo vedo molto più organizzativo in questo momento. Io ho capito, però penso che non tornare alla flessibilità per tutti faccia esplodere il deficit. Non so come la pensa Mario. No, ma io, Mario, come la pensa su questo? Ma sicuramente mi pare che siamo in un classico assalto alla diligenza. Io direi benissimo il discorso che fai tu, cioè attenzione, siamo in un sistema a ripartizione con metodo contributivo per fare che ognuno va in pensione all'età che vuole, serve una capitalizzazione pura, ma come sai benissimo, con la transizione da ripartizione a capitalizzazione si creerebbe un deficit devastante nell'immediato. Esatto. Poi, per quanto riguarda il discorso di adeguare come dire, la presenza in azienda, la remunerazione del prestatore di lavoro all'età, cioè meno produttività, meno salario, che dovrebbe essere il ciclo di vita naturale dei soggetti più anziani. Però, Oscar, tu anche qui capirai benissimo che questo implicherebbe un taglio di salario negli ultimi anni di vita lavorativa di cui si chiederebbe l'integrazione. Ma infatti, per evidenti motivi, chi pagherebbe l'integrazione? Aspetta. Il datore di lavoro, la fiscalità generale? Ricordati vecchia proposta di 5 anni fa di questo scemo che ha sempre detto, in coerenza esattamente a quello che dici, per dare una risposta a quello che dici, il cretino senza titoli diceva la vera riforma sarebbe quella di parità attuariale nell'arco vitale contributivo, ma all'inizio aliquote molto più basse per chi ha zero o minore anzianità diversamente, che man mano nel tempo aumentano come aliquota. Questo per darti una risposta a come si fa a modulare. E questa cosa qua, che secondo me è la maniera per costruire un sistema di equità intergenerazionale, a prescindere poi dai requisiti anagrafici, dagli anni di versamento e così via, che io riterrei fondamentale, perché in questo paese stiamo veramente ponendo le basi per esplodere e perché tutti i giovani di una testa e capitale monoformato se ne vadano, perché questo è quello che sta avvenendo a numeri crescenti, tutti no, ma moltissimi. Allora bisogna cambiare le regole. Ecco, questa roba qua al sindacato è contrarissimo, perché rappresenta fasce anagrafiche, corti anagrafiche più elevate rispetto a quelle basse. Quelle basse stanno mute, però è in parte una risposta, in parte, al problema giustissimo che poni, Mario. Quando prima io dicevo ci dovrebbero dare una mano i sindacati, è proprio sul fatto che ci sia una curva salariale. Ma tu non puoi, tra virgolette, pretendere che rappresentino altri rispetto a quelli che rappresentano. No, devi sapere che loro rappresentano pensionati e corti anagrafiche dei lavoratori. L'intangibilità del salario. Il problema vero che si pone, per cui poi le industrie dicono aiutateci con i prepensionamenti, è che non potendo diminuire il salario preferiscono mandarli a casa. Ho capito, ma questo è sbagliato. Io penso che gli imprenditori stiano sbagliando più del sindacato, perché il sindacato per certi versi lo capisco. L'impresa no, non la capisco. Capisco la grande che vuole, la piccola non la capisco, perché la piccola, sai, non può ragionare come se fosse la grande impresa che appunto dice prepensionatemeli e mandatemeli via. La piccola dovrebbe ragionare: io ci ho molto investito, questi ne sanno, mentre io devo prendere. Ma la piccola, non dimenticarti che a volte si tiene quelli che sono già in pensione. E poi se li tiene come consulenti. Come consulenti. È per quello che io ho sempre detto: dovrebbero fare i tutor. Bravo, sono molto d'accordo con questo. Allora, cominciamo con Luigi da Napoli. Luigi, prego, dici come la pensi. Buongiorno signor Giannini, io purtroppo sono 47 anni che faccio il trasportatore. Ecco. Il trasportatore di IR, 47 anni. Sento Radio 24 ore al giorno, da 20 anni, da quando è incominciato, a Zanzara. Grazie infinite, tra l'altro. Però io me la prendo con voi, signor Giannini. Dica. Ancora credete al sindacato? Il sindacato in Italia sta rubando soltanto i poveri operai. Cioè, il sindacato d'accordo col governo. Il governo prende 7, 8, 10, 20, 30 pensioni al mese. Come fa uno a prendere 20, 30 pensioni, stipendi al mese? Come fa un sindacato, la moglie, i figli, i nipoti a prendere pensioni prima che nascono? Un sindacato, quello che è andato Bonanno a prendere 30.000 euro al mese di pensione. E Luigi, su questo hai perfettamente ragione. Scusate, quello che non le ho detto: noi trasportatori non abbiamo l'usura della notte. Ma tu ti rendi conto all'Italia che stiamo pagando, noi trasportatori che stiamo accise, cioè su un litro di benzina ci sta un euro di accise. Dicevo semplicemente prima che intervenissi, quindi lo dico a pieno sostegno ai camionisti, che considero l'idea che i sindacati siano riusciti a far passare come lavoratore usurante per avere una soglia anagrafica 61 e 70 i conducenti pubblici con 9 dipendenti e non i camionisti, è una roba che la dice lunga su chi rappresenta il sindacato. Come hai visto, vedi Renato, siamo esattamente, in questo caso, il nostro amico Luigi, e te che sei imprenditore, la pensate allo stesso modo, ma perché il sindacato, quelli come Luigi, e infatti vede l'intervento, non solo lo rappresenta, ma dice io metto il conducente pubblico come lavoro usurante, tu camionista, che cazzo vuoi? Beh, è stato diciamo messo che nella lista, hanno un buon sindacato, nella lista dai, per chiedere l'APE sociale, ma questa è un'altra cosa rispetto al requisito anagrafico automatico che scatti. Adesso vediamo se metteranno anche i camionisti. Grazie Luigi. E intanto Giovanni da Palermo. Giovanni, non c'è. Pronto? Più? Eccoci. Pronto? Joe. Sono Joe. Non Giovanni. Ok, scusa. Salve. Innanzitutto è un grande onore per me parlare con lei, signor Andiamo Giannino, al punto, andiamo al punto. Sempre. Allora, parlando delle elezioni di domani. Ecco. Per una volta tanto, almeno i quattro principali candidati sembrano delle, chiamiamole delle brave persone, delle facce, diciamo, pulite. Non dovrebbero essere personalmente compromessi con storiacci. Esatto, ma il vero problema sono i membri dell'assemblea regionale, dove vigono sempre le solite dinamiche. Chiunque viene eletto presidente della regione dovrà fare i conti quotidianamente con l'assemblea regionale. il vero problema è lì, perché dobbiamo dircela tutta: la Sicilia, gran parte dell'economia siciliana dipende dal settore pubblico, dalla regione. Io nel mio piccolo sono iscritto alla gestione separata e quando mi capita di fare lavori anche per clienti privati, io devo aspettare che la regione paghi loro affinché io possa essere pagato. Cioè noi siamo, è un accordo tacito ormai, quindi noi siamo a questi livelli, per cui io personalmente tenderei a votare giallo, così non dico il nome del partito, tenderei a votare giallo perché anche se ci sono stati casi di mala gestione, cioè di incompetenza altrove, nella situazione in cui siamo noi oggi in Sicilia, credo che bisogna azzardare al massimo. O si riesce, o questo governo futuro siciliano riesce a governare, oppure andiamo direttamente in fallimento. Esatto, come sa Gio, a giugno l'ipotesi c'è, tanto Buttafuoco ha scritto tutto un libro, l'aggiornamento alla sua buttanissima Sicilia, che si intitola Strabuttanissima Sicilia, sull'ipotesi appunto che a giugno la Corte dei Conti non potrà fare altro di fronte al bilancio, saputo lo stato patrimoniale e l'inesigibilità di tanti crediti dichiarati a sostegno della parte patrimoniale della Regione Sicilia, di dichiarare signori ci volevo il commissariamento. E questa è l'ipotesi di cui parecchi sono in realtà convinti e che naturalmente non è stata in nessun modo esaminata dai quattro leader che si confrontano nel voto alle urne domani. Bene, torniamo tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Allora, abbiamo finito con un ascoltatore che ci parlava di vicende siciliane e infatti ci spostiamo proprio alla Sicilia, perché la nostra domanda a questo punto, poi sentiremo ancora due ascoltatori, lasciatemi lì che continuiamo anche con loro, però ha raggiunto un amico, una persona che conosco da tempo e sulla cui serietà non ho mai avuto motivo di... Però abbiamo deciso di chiedergli anche con una punta di ironia, perché la persona che è con noi svolge una professione particolare, cioè è un economista, è un docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Palermo, e a lui vogliamo fargli questa domanda: ma come gli è venuto in mente, come si può giustificare, è una domanda in punta di ironia ovviamente, ma come può pensare uno di fare seriamente l'economista in una regione dove, in un paese dove già i numeri sono un punto di vista relativista in cui ognuno pretende di fare i suoi e nessuno condivide i numeri degli altri, tutti hanno la pretesa di dimostrare che i numeri degli altri sono falsi, ma in Sicilia la Corte dei Conti dice che è falso l'intero bilancio per la parte patrimoniale della regione Sicilia, che, come può uno pensare di fare l'economista in Sicilia? No, anzi, allora Carlo Amenta, no? Carlo Amenta con noi, grazie di aver accettato questa domanda con un po' di ironia che sapeva che gli avremmo rivolti. Oscar, ecco. Buongiorno a tutti. Aspetta, che c'è un aspetta, c'è un supplemento di domanda, che il perfido imprenditore nordista è un perfido imprenditore nordista. No, è peggio perché poi, allora, siccome io conosco un sacco di siciliani bravissimi, sì, a gestire le aziende, sì, lui insegna gestione aziendale, purtroppo i suoi alunni mi sa che sono costretti a emigrare. Ah, ecco pure, va bene. Allora Amenta, come gli è venuto in mente lei? Ma potrei dire, restando in punta di ironia, che probabilmente cercavo una cosa in cui c'era da fare molto poco, quindi diciamo, essendoci poche imprese, in realtà avevo scelto di studiare una cosa che non interessava a nessuno. Però in realtà devo dirti che la situazione della Sicilia è disastrosa, quindi poco fa sentivo Carlo Alberto parlare di socialismo reale per l'Italia. La Sicilia è un'economia a socialismo reale da sempre praticamente. Guarda, io ritorno fastidiosissimo sull'auricolare, non so se è colpa mia o colpa vostra. No, credo che con l'auricolare sarebbe meglio levarlo l'auricolare. No. Allora lo levo. E allora dicevo, in realtà comunque è interessante notare come le imprese poi in Sicilia, proprio a causa di questo denaro pubblico che arriva, subisca una sorta di spiazzamento delle competenze, per cui al di là degli imprenditori bravi che conosce Renato, molti sono più bravi a fare anticamere e capire qual è l'assessore più bravo che a capire cosa vogliono i consumatori, e questo secondo me è un aspetto interessante comunque nella gestione delle imprese. Mi consolo così. No, aspetta, però ce lo devi spiegare, perché è più interessante da che punto di vista? Ma secondo me, diciamo, la probabilità che continua a esserci attività di impresa in regioni come la Sicilia dà ragione a quello che diceva Stigler quando diceva che il capitalismo in realtà è un'erbaccia resistente più che molto un fiore delicato. Sì, molto resistente. Quindi gli imprenditori riescono ad adattarsi, a mutare le proprie competenze, le proprie risorse a seconda della regione in cui si trovano, del contesto economico in cui si trovano, e secondo me in termini di risorse e competenze, per parlare una lingua che Carlo Alberto, diciamo, riconosce bene, questi sono aspetti e casi di studio per me piuttosto interessanti, ma capite bene anche che devo trovare una giustificazione al fatto che faccio questa cosa. No, io ho ridacchiato un po' amaramente, non mi permetterei mai, Carlo, di mancarti di rispetto, però quando ho iniziato a vedere che producevi paper e studi non è un'ironia, ascoltatori, non equivocate, però sull'economia criminale mi sono detto eccolo là, e fa l'economista in Sicilia, e di che cosa si deve occupare? Dell'economia criminale. Un po' è vero o no? Sì, un po' è vero, perché sicuramente la Sicilia rappresenta non solo per la importanza ovviamente tragica del fenomeno, ma anche, devo dirti, da questo punto, con un punto di vista un po' un pizzico di orgoglio, anche negli ultimi anni in termini di risposta. Al fenomeno criminale. Ed è una cosa che non si dice troppo spesso, però a mio avviso, per la mia esperienza, io ho visto molte regioni in altri posti d'Italia dove l'atteggiamento della società è un po' quello che avevamo noi negli anni Ottanta. Cioè sì, ci sono i criminali, ci sono i delinquenti, però finché stanno fra di loro, si fanno i fatti loro, non è un problema. Invece, come la criminalità è come un cancro, riesce in poco tempo a macchiare tutto quello che tocca. E devo dirti che in realtà lo studio delle imprese criminali è interessante sia perché comunque in qualche modo si analizzano con strumenti propri delle imprese dei fenomeni che hanno, dovrebbe essere lontanissimi dalle imprese, quelli, diciamo, comunque dello studio delle risorse, delle competenze, dei business plan, che sono cose che comunque le organizzazioni criminali in qualche modo adottano, anche se involontariamente, e nello stesso tempo comunque dà la possibilità di capire come sia possibile che c'è una risposta da parte della società, e quindi in termini di domanda capire se effettivamente la domanda illegale di beni illegali sia una domanda che segue delle determinanti simili poi a quelle della domanda dei beni legali. Ma dovesse dire l'economista Menta il paio di cose che più potrebbero contribuire nel breve medio a un scatto dell'impresa e dell'occupabilità nella sua regione, che cosa indicherebbe? Due parole, mamma mia, nel senso, cioè, non avrei molto da dire. In realtà credo che, non so se il commissariamento che tu invocavi sia effettivamente una possibilità, ma purtroppo credo che giuridicamente non lo sia, quindi sono vivremo tempi interessanti, e come sapete è una maledizione e non un augurio. Però in realtà credo che l'idea per l'impresa sia veramente che si liberi dal peso dell'economia pubblica. Cioè, la regione intermedia qualcosa come il 60-70% del PIL, secondo stime non ufficiali e segretissime, che sono più o meno quello che faceva l'Unione Sovietica ai tempi di Lenin. Esatto. Quindi parliamo così. Quindi quello che direi io in due parole è fuori la regione da qualsiasi elemento di intermediazione di beni. Perché il punto vero è che siamo arrivati, siccome al limite in cui si toccherà con mano nella prossima estate la camicia di nesso, cioè avvelenata, che è l'autonomia speciale siciliana, perché una volta che la Corte dei Conti rifacesse un altro passo avanti nelle sue osservazioni sul bilancio parte patrimoniale della Regione Sicilia, e ciò che dovrebbe avvenire in un qualunque ordinamento serio non può avvenire solo perché lo impedisce l'autonomia costituzionalizzata, come rilievo, speciale siciliana, avremo la dimostrazione a tavolino che l'autonomia speciale siciliana è uno scudo di fetenzie, perché diventa il motivo per cui non si può intervenire commissariando un bilancio dichiaratamente falso, secondo chi lo deve certificare nel nostro ordinamento. Non so come la pensi tu, ma sarebbe veramente un capolavoro. Sì, no, infatti devo dirti che se non stessi a Palermo lo guarderei con l'interesse, diciamo, dell'accademico. In realtà, stando a Palermo, lo guardo con la preoccupazione di quello che ha paura, diciamo, dei saccheggi per strada. Quindi parole capite forti. Che mi trovo in una situazione un po' complicata. No, lo capisco. Senti, poi se voi volete accogliermi a Milano, qualcuno mi dà asilo, io vengo con piacere. Diciamo, ma i tuoi studenti in cosa credono? Ma i miei studenti, devo dire che hanno fondamentalmente ormai l'idea di andare fuori. Cioè, io parlo con ragazzi molto motivati, molto bravi, devo dire. Io poi insegno le lauree magistrali, quindi sono ragazzi grandi che continuano a studiare più per scelta spesso che per necessità o perché non hanno niente da fare. E c'è questa convinzione e questa rassegnazione ad andare via, che non sarebbe un dramma se non ci fosse la possibilità per loro di tornare in questo momento, ma soprattutto di attrarre altri. Cioè, io non vedo nell'emigrazione un problema, anzi un arricchimento, soprattutto per un'isola. Voi sapete, l'insularità comunque è un problema anche in termini, per esempio, di studi di capitale sociale, di formazione. Certo. Però in realtà vedo il problema nel fatto che non attraiamo altre persone o non diamo a queste persone la possibilità di fare esperienza fuori e tornare. Quindi vedo ragazzi molto bravi, molto preparati, molto motivati, che sono pronti ad andare via, anche un po' perché sono cittadini del mondo. No, no, anche un po', ma soprattutto perché è un problema c'hanno... che sta diventando italiano, sì, ahimè. Sì, sta diventando un'isola tutta l'Italia, ahimè. Noi stiamo diventando un paese che esporta capitale umano formato, e questo è un rende risorse prima dei cervelli, perché ci spendiamo fior di soldi, e che importa, ohimè, invece capitale umano tutto da formare nella migliore delle ipotesi, e che non formeremo perché non lo vogliamo neanche formare, perché questo è il punto. Quindi siamo un paese esposto non solo a una curva demografica devastante, ma a una curva di depauperamento del capitale che spendiamo già facendo sforzi straordinari, e la parte elevata decidiamo a tavolino di devolvere ad altri, che sono molto grati di questo, come ovvio, perché significa incamerare per loro un capitale alla cui accumulazione non hanno assolutamente concorso, ma ne beneficiano degli effetti. Ohimè, grazie a Carlo Almenta. Voglio solo sapere una cosa, professore, non voglio sapere niente, no, il voto del personale uguale libero e segreto, ma va a votare? Vado a votare per la prima volta, perché non riconosco la regione come istituzione, ma la situazione è tragica, ma diciamo non seria. E poi dicono, è chiaro che uno come Carlo Almenta può essere solo amico di qualche di persone come me. Grazie Carlo Almenta, esatto. Viva i suoi studenti, questo devo dire la verità, avete un personaggio straordinario. Sentiamo ancora rapidamente qualche ascoltatore, cominciando con Franco da Parma. Franco da Parma sulle pensioni, mi dicono. Franco. Sì, buongiorno. Eccoci. Se esiste un ente per la previdenza sociale, no? E ancora è questo, e ancora esiste, e sì. Ammettiamo che debba esistere una previdenza sociale, allora deve prendere atto la previdenza sociale che l'esperienza sul lavoro non serve più, quindi il lavoratore anziano, come avete anche ammesso voi, è un problema, e di questo la previdenza sociale, se esiste, si deve occupare. Ad esempio, è più importante che si occupi di questo che non che garantisca delle rendite di 90.000 euro al mese. Se è la previdenza sociale, Franco, ma ha senso che garantisca 90.000 euro al mese rendite baronali? Franco, sono d'accordo, nel senso che da anni mi batto per il ricalcolo di quei. Sappiamo quali sono oramai, sono 13 regimi speciali del retributivo che, grazie al cielo, sotto Boeri l'INPS ha fatto l'operazione porte aperte e ha fatto toccare a mano con chiunque voglia vedere i numeri, come in quei 13 regimi speciali, dai post telegrafonici alle ferrovie eccetera eccetera, fossero rispetto alle caratteristiche del retributivo ulteriormente cariche di regali a proprio vantaggio, con numero di anni di contribuzioni minimi per la pensione ancora più basso di quelli generalmente, che erano parecchio più bassi di quelli attuali del regime contributivo, moltiplicatori, coefficienti di trasformazione più generosi, o numero di anni a cui era collegato il retributivo ancora più ristretto di quello della legge retributivo generale. Sappiamo quali sono, sappiamo di quanto è il regalo, e io dico sempre, non per tutti gli assegni, ma per una soglia superiore a X volte l'integrazione integrazione sociale al minimo X volte, 530 euro più o meno, diciamo per assegnare dai 3500 in su, iniziare a calcolare un minimo di ripartizione intergenerazionale. Quelli che sostengono questa cosa passano per matti, però, quindi io le do ragione, ma non sono disposti a farla. Chi rappresenta i pensionati in essere, quindi anche quelli con le rente a 90.000 euro, non si schioderà mai dal dire che non si tocca. E io dico che è sbagliato, invece è sbagliato nella mia idea intergenerazionale di equità. Gli eccessi di regalo, sto parlando di eccessi di regalo al retributivo, eccessi di regalo al retributivo, quindi non ricalcolare tutte le pensioni, su quelle bisognerebbe intervenire. Dopodiché, non mi illudo, non è così che noi copriamo i pacchi di miliardi di deficit, ma diamo un'idea concreta e troviamo risorse. Ancora Alessandro da Milano. Alessandro da Milano, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, grazie di avermi fatto intervenire. Io ho 36 anni e volevo parlare di pensioni. Ma lei ci pensa? Visto che... No, non ci penso, perché tanto, Oscar, non ci andrò mai. Io ho questa paura. Nel senso che comunque io sento, visto che la mia generazione non viene mai calcolata quando si parla di prepensionamenti, io mi rendo conto che chi parla di prepensionamenti, i sindacati, la politica, se ne frega che saremo noi a pagare. Sì, se ne frega, proprio come se ne frega completamente. Esatto. Distruggerà il mio futuro e quello della mia generazione, e se ne frega. Tanto in questo momento i voti arrivano soltanto Alessandro, già nel lavoro hanno costruito un sistema del lavoro che per decenni era tutti i costi a carico dei precari giovani per difendere i requisiti di rigidità dei lavoratori tutelati a tempo determinato, e la previdenza è la stessa cosa. Io, più che dire che ahimè hai amaramente ragione, secondo me, e dico, vedi, tu dici non ci penso, tanto inutile. Io ho il terrore, io vivo, sono lavoratore autonomo indipendente, io ho il terrore, io devo lavorare per i miei figli piccoli fino a che potrò, e ho il terrore perché faccio un mestiere in cui inizieranno a dirmi tra poco: no, alla tua età vai fuori dai piedi. E sarà, mi dovrò inventare altri lavori, non mi tiro indietro, perché, ma dovrò farlo. Non puoi neanche fare il vecchio saggio. Dovrò farlo, no, perché non sono saggio soprattutto, sono molto vecchio ma non troppo saggio, diciamo così. Però Alessandro, bisogna che la vostra generazione si organizzi un po', perché se votate questi qua, secondo me non andate molto lontano. Questa è la mia opinione. Mi sembra che ultimamente sono si tutti uguali, hanno bisogno di qualcosa di diverso, questo è il punto. Perché a me la pensano sui professionamenti, da Berlusconi a Salvini, alla Meloni, ai 5 Stelle, al PD... E a sinistra del PD la pensano tutte allo stesso modo. Questo è il punto. Gli emendamenti depositati sono uguali per far saltare il tetto automatico alla Fornero. Torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. I conti della Belva. Cari ascoltatori, oggi abbiamo attaccato argomenti seri, ma abbiamo usato, lo facciamo intenzionalmente, sabato mattina a volte anche per intrattenervi un pochino con dei toni un po', per così dire, ironici, satirici. Lo facciamo sull'età della pensione, ho scatenato una marea di reazioni che naturalmente di fronte all'idea, ma sono abituato di sostenere che bisogna fare i conti con andare in pensione in età sempre più alte, tutti insorgono. C'è uno che mi dice: ho 43 anni, ho mal di schiena, non ce la farò. Ma allora, con questo criterio io non certifico la salute di ciascuno, però insomma, non... ciascuno è convinto di rappresentare l'eccezione in questo paese. I numeri, tutti quanti dicono, i numeri riguardano gli altri, non esiste un paese così. Però oggi è un giorno molto importante per un paese che abbia un'idea di sé. A volte mi chiedo quanto l'individualismo abbia distrutto l'idea di sé di questo paese, semmai ne sia esistita una comune, perché abbiamo fatto le puntate su Caporetto e ci siamo detti come Caporetto e l'8 settembre siano due date che per molti versi ci dicono ancora, insomma, delle responsabilità delle classi dirigenti italiane. Perché oggi è la giornata però delle forze armate, e nella giornata delle forze armate, oltre a ringraziare tutti coloro che fanno la scelta di servire in divisa, il nostro paese è una forma di, come quella di tutti gli altri che lo servono, però è una forma particolarmente impegnativa per la necessità di addestrarsi professionalmente ad operare su piattaforme con sistemi e su teatri a cui si sposta i grandi rischi. Il nostro è un paese che negli anni ha dato un contributo sempre più elevato e sempre più apprezzato a missioni internazionali in teatri delicatissimi e in cui abbiamo dovuto piangere anche le nostre vittime, tutto questo con un bilancio che è quello che è, tutto questo con un modello di difesa su cui, diciamo, io sono lieto oggi di avere come ospite uno che ha fatto una proposta che secondo me era la più seria di tutte per ricommisurare il nostro modello di difesa, a cominciare dagli effettivi e dal bilancio tra spese di investimento e spesa corrente per le piattaforme e sistemi, perché non conta solo pagare la gente, se poi non la tuteli e non gli dai armi e sistemi di rilevazione e di comunicazione up to date. Però detto questo, quello sì era un sistema. La politica su questo poi incespica sempre, perché quando si tratta di fare delle scelte precise, abbiamo bisogno per esempio di più sergenti operativi e meno marescialli e di transizioni più brevi nel tempo, oppure quando si tratta di commisurare le risorse, se diamo X alla spesa corrente dobbiamo dare X più Y a manutenzione, investimenti, acquisizioni e investimento su programmi, la politica poi ha paura delle reazioni, diciamocelo chiaro. Viviamo in un posso paese in cui dire una cosa tra l'altro e si va a quel punto a tutti i problemi delle aziende della difesa, che vuoi dire? No, due cose molto importanti di cui la gente non si rende conto. La prima è la ricerca, cioè la ricerca militare è quella che ha portato innovazione a manetta. Sì, sarà impopolare che la gente dirlo, è impopolare, lo so, però ci sono due settori che trainano la ricerca: medicina e militare. Ecco, bravo. Fine della storia. Gli altri vanno tutti. No, per carità, gli altri vanno tutti dietro. Però, e la seconda cosa è che tradizionalmente tutta la parte militare è qualcosa che è avanzatissima dal punto di vista organizzativo e logistico. E la cosa incredibile è che viviamo in un paese in cui, tra i miracoli italiani, abbiamo filiera di industria della difesa in cui nella ricerca e nell'applicazione di nuove tecnologie siamo in ottime posizioni mondiali, malgrado questo atteggiamento, diciamo, di ipocrisia, per certi versi comprensibile, per altri no, della politica, perché l'intera filiera di Leonardo e altri gruppi privati che lavorano dalla cantieristica ai sistemi di rilevazione radar, a quelli di comunicazione, ai sistemi, insomma, all'artiglieria navale, ai siluri, insomma, noi abbiamo eccellenze mondiali, solo che non si riesce mai a capire quanto la politica, come fanno tutti gli altri grandi paesi, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, quei paesi considerano questa produzione non solo a ricadute di occupazione tecnologica trasversalmente utilissime, ma considerano parte integrante anche della propria politica estera. Insomma, i presidenti del Consiglio, i capi del governo vanno lì a trattare i grandi contratti. Da noi c'è sempre la roba di dire meglio non occuparsene, che è una contraddizione. Allora, abbiamo con noi appunto l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, è stato anche ministro della difesa in un governo tecnico, che oggi è passato a occuparsi di industria della difesa, è presidente di Aerea SPA, che lavora non solo ma soprattutto nella filiera dell'F-35, che tante polemiche questa settimana ha sollevato con l'intervento del generale Camporini. Abbiamo con noi l'ammiraglio Giampaolo Di Paola. Grazie, sono stato troppo lungo, ammiraglio, però una volta nella vita ci tenevo a dire che cosa penso di quello che ha fatto per il nostro paese. Se l'ho messo in imbarazzo, ho sbagliato, mi scuso con lei. Allora, questa problematicità del controverso rapporto con il politico quando si tratta l'ordinamento militare, le spese per investimento e l'industria della difesa, lei ci ha fatto i conti per tutta la vita. E siccome è riuscito sempre ad affrontarlo con equilibrio, qual è l'equilibrio con cui chi si occupa, lei l'ha fatto prima per le forze armate, adesso lo fa con un'azienda della difesa, con cui riesce a trovare il giusto mix per non perdere la pazienza? Ma io credo che l'equilibrio sia soprattutto nei vari ruoli che uno riveste, essere seri e dire sempre la verità, dirla con franchezza, dirla con chiarezza, fare sforzarsi, far comprendere l'ambiente politico in generale la realtà delle cose, quella è la chiave, senza esagerazioni, senza spingere troppo, diciamo, il pedale dell'acceleratore, ma senza mai tirarsi indietro e soprattutto senza mai mascherarsi dietro false verità, perché in Italia è un dato di fatto, ha detto lei, la classe, l'humus politico, e quindi non faccio né nomi, cognomi, né partiti, né l'humus politico ha una certa pruderie, per usare un termine francese, comunque una pruderie un po' ipocrita quando si parla di strumento militare, di uso dello strumento militare, dello rapporto. Lo fa, lo usa, lo utilizza, però sempre con una certa pruderi, e questo è un atteggiamento dell'humus politico trasversale, e quindi con cui bisogna confrontarsi e confrontare tutto con un'estensione rituale, dire le cose come stanno, non aver paura di dire le cose come stanno, cercando quindi un'opera di convincimento progressivo su questa realtà. Senta, se però uno dice economicamente, quando abbiamo iniziato a decidere ogni anno c'è questa spada di Damocle che dice diminuiamo il numero di F-35, la politica si trova sempre a dire questo, perché tu gli obiettivi, ma più lo diminuite più lo rendete uno strumento non solo meno utile ma più costoso per una nuova piattaforma, e soprattutto danneggiamo tutta la fila di imprese italiane che avevano ordini in arrivo per 20 anni da tutti i paesi che utilizzavano l'F-35. Più scendiamo in questa cosa, più rendiamo facile agli altri paesi dire bene, non si fa più in Italia, si fa altrove. In cosa questo ragionamento non riesce a passare, che era un po' il fondo del motivo delle polemiche sollevate da Camporini questa settimana? Non riesce a passare per il motivo che l'ho detto prima, cioè che quando si parla di sistemi di difesa in generale, e in particolare, questo fa parte, diciamo, questo muso politico, certi sistemi particolarmente impegnativi, anche diciamo più hard, come si dice, cioè più duri, ecco che la prudenza scatta sempre più forte, è il caso del telefono 35, cioè, perché c'è, quando per esempio se si parla di satelliti, che pure satelliti per la difesa, non c'è una particolare, non vengono considerati come particolari sensibili o offensivi, e quindi se ne può parlare. Quando si parla di certi sistemi d'arma che possono avere una caratteristica diciamo più hard, ecco, su questa scatta questa pruderi dell'humus politico italiano. Questa è la realtà, e con questa bisogna convivere, con questa bisogna combattere, con questa bisogna cercare di fare capire, parlando chiaramente, senza esagerazione, ma parlando, questa è la realtà, e di questo ci dobbiamo rendere conto, purtroppo, perché non è da paese maturo, soprattutto da un paese che poi fa un utilizzo abbastanza esteso delle forze armate. Perché poi questo che non capisco, perché i politici sono gli stessi che però, quando si tratta di mandare la gente in missioni in teatro operativo anche impegnativi, noi abbiamo avuto un numero sul totale delle forze operative italiane che era iper impegnativo, eppure via, con profusione di mezzi, logorio dei sistemi, senza dire che poi naturalmente questo va reintegrato e comporta delle spese, innanzitutto per la sicurezza dei contingenti. È un po' singolare la politica, il politico che si occupa di difesa nel nostro paese. Intanto abbiamo un'interruzione di un minuto e poi torniamo con l'ammiraglio Gianpaolo Di Paolo. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Allora, in questo giornata delle forze armate, una riflessione rapida su un po' questo atteggiamento singolare della politica quando si tratta di temi che riguardano le forze armate, i dispositivi, i sistemi, l'ordinamento e l'industria della difesa, c'è poco da fare. Da una parte a parole, ma dall'altra nei fatti una vasta ipocrisia. Insomma, un tema complicato, perché la politica non vuole entrare con scelte che vengono avvertite come facilmente equivocabili dall'opinione pubblica. Ma con l'ammiraglio Di Paolo adesso le faccio una domanda. In grandi paesi europei, Francia, Germania, Gran Bretagna, lo dicevo prima, la politica tradizionalmente verso l'industria della difesa, verso gli interessi che poi sono parte della politica estera integrante, ha un atteggiamento di solito completamente diverso, e che invece provoca un grande consenso nelle opinioni pubbliche. Le ragioni storiche per cui, di fronte a, per esempio, Finmeccanica, quando Finmeccanica è andata negli Stati Uniti, Tremonti fece sceneggiate dicendo bisognava chiedermelo, io avrei detto no, e io gli obiettai, ma come no, al fatto che un'impresa italiana va nel più grande paese del mondo come procuratore militare, tu lo consideri un errore? Sì, lo considero un errore. Dico, come lo consideri un errore? Assolutamente sì, perché significa essere troppo vicini al paese, dico, il paese che è il leader dell'alleanza a cui apparteniamo. Lo dico per esempio perché quel dialogo mi fece capire che, mio Dio, ma perché c'è questa differenza storica così netta tra quello che i governi francesi fanno? L'abbiamo visto nella storia dei cantieri, poi io ci crederò davvero quando lo vedrò che nella cantieristica militare sarà 50-50 l'alleanza, perché mi ricordo quando si trattò di scegliere la motorizzazione delle Fram, che i francesi hanno un utilizzo diverso da noi, che sono navi per acqua blu, cioè insomma per missione anche negli oceani. Mi ricordo che insomma, i francesi non erano proprio molto concilianti con le posizioni italiane, ma nell'esperienza dell'ammiraglio Di Paola, perché lì è stato possibile e funziona anche come consenso, e da noi invece no, questa tutela e promozione di eccellenza italiana del settore? Perché figlia, per quanto riguarda il comparto della difesa, quindi la difesa è comunque figlia di una di quella cultura di cui parlavamo prima, che è la battitudine, che nasce probabilmente dalla nascita, cioè alla fine della guerra mondiale, come è finita la seconda guerra mondiale, l'8 settembre, tutto quello che ha portato, tutto quello che c'è stato prima, e poi la nascita della Repubblica e le forze fondamentali che hanno dato culturali che hanno dato origine a questa Repubblica, che sul tema della difesa, delle forze armate, dell'uso della forza, legittimamente, quando legittimo usarla, sono sempre state prudenti, per dir poco. Questa è la realtà. Questo è un humus culturale, uno strato culturale che permea sia l'humus politico ma anche l'humus del paese, perché altrimenti non si capirebbe per quale motivo, se ci fosse un humus così favorevole, la classe politica poi si adatterebbe. Questa è la realtà. Quindi è una storia di lungo periodo, che è il motivo, tra l'altro ci dice secondo me anche di un pezzo di un compiuta di questa, dell'identità percepita di Italia su se stesso, perché ripeto, in Francia è completamente diverso, in Gran Bretagna è diverso, eccetera eccetera. Perché sono paesi in cui l'uso legittimo della forza, legittimo, è accettato come strumento di politica internazionale. No, da noi questo molto meno, tant'è vero che quando ci sono missioni di un certo tipo, per esempio se dobbiamo fare missioni di istruzione, allora queste vengono subito facilmente cavalcate. Se sono missioni più impegnative, le si fanno perché facciamo parte di un sistema di alleanze e la classe politica in questo ha senso di responsabilità, però vengono sottogiocate. E quando si trattò di operare militarmente anche con carichi bellici di caduta nella guerra, ai tempi di D'Alema, era meglio non dirlo. Ma detto tutto questo, io ringrazio l'ammiraglio Di Paola perché sono un suo fervente ammiratore da italiano, e spero che anche l'impresa in cui ha portato la sua esperienza non abbia ricadute troppo negative da questo dibattito sull'F-35, che è il classico esempio di come però l'Italia non riesce a fare una scelta a cui crede davvero, perché tanto si riapre e si richiude come un elastico ogni 6 mesi questa storia. Quella è una piattaforma di interoperabilità NATO necessaria per gli sviluppi tecnologici, se uno ci vuole stare ed essere interoperabile ad alto livello nell'alleanza a cui appartiene, altrimenti ci sta per finta, e allora che ci sta a fare? Questa è la mia obiezione in punta di conti di scelta, perché tanto varrebbe non farle queste scelte se uno le fa e poi si ritira indietro, perché si aumenta il costo, capite? E diminuisce l'efficacia. Questa è la follia della politica della difesa italiana. Grazie all'ammiraglio Di Paola. E caro Mario, ma tu diciamo la verità, tu usciresti dalle alleanze militari italiane? Cioè, una battuta questa, vero? Cioè, allora, usciamo da tutto, usciamo dal pianeta, usciamo dalla realtà. No, da quella siamo già usciti. Per cui, guarda, per favore, ecco, guarda, stiamo perdendo il contatto con la realtà. Ma però, come dici nei tuoi post, la realtà poi si prenderà le sue, insomma, sonore vendette. Sì, ma guarda, è cattivissima. Io sono assolutamente, come dire, apartitico, e sono tuttavia un grande tifoso, un grande ultra, un grande attivista del partito della realtà, che mi pare l'unica cosa di cui questo paese abbia bisogno. Ecco, caro Alberto, che però se n'è andato a fare un convegno con Unicredit, capisci? Ma lui lo paga. Capisci, devi avere banche, caro mio, mica come la tua impresina. Ma la prossima settimana, dove, in quale altra parte del mondo te ne vai? No, vado in Asia, ma fra due. Ah, in Asia ma fra due? Sì. Ragazzi, prossima settimana ci dia tutti. Io comunque, ascoltatori, sappiatelo, io da anni spiego a Nato Cifarelli che la mia problema di età, il lavoro in età, il suo si uniscono, perché io farò il suo autista. Questo è quello. No, la nostra solenne promessa. Non ho ancora convinto, ma ci riusciremo. Grazie a Mario, grazie a Renato, grazie a Carlo Alberto. Voi continuate con la 24. Appuntamento con me lunedì mattina alle 8:15, con me Luca Talese alle 24 mattina, e poi pomeriggio alle 16 la versione di Oscar. Buona domenica! L'Italia, l'Italia, le mesta, le tempi.